ci può uscire lo stesso. Non so qua. È che tu sei lontano, io sono già uscito. Adesso sei entrato, adesso mi sto rompendo le palle e torno a uscire. Vai a spargere il virus, vai. Non hai il virus, io. Forse sono l'unico sassarese che ha fatto il tampone. Si è fatto il tampone, a canna, grazie. A bicicletta. Non gliel'ho fatto davvero. C'è mia nipote che lavora in ospedale. L'ho fatto, abbiamo fatto tutte e tre. Quindi posso uscire tranquillamente, non hai problemi. Non si può morire dentro, per carità di Dio. Oh, sto uscendo? Sì, un po' cupo, ma già stai uscendo. Questo è. Perché l'altra non funziona più. No, adesso voglio mettere anche in moto l'altro 475, ma 474, 774, come cacchio si chiama? E se non c'hai due? Allora aspetta, devo cercare. Vediamo come cacchio si chiama, 747, lo voglio collegare. Anzi, ma 747, vai. Ce l'ho anche io, ma non mi piace. C'è una modulazione di merda. Anche con 60, io ho un 60 connessione Yaesu, anzi il cavetto veramente. Connessione Yaesu, però non mi piace la modulazione, preferisco più o il 430, o il 440, o il 140, ce li ho tutte e tre io. Tutte e tre, manca solo il 80, però il 757 di modulazione non mi piace, provalo. No, il 747. Ah, tu c'è quello di plastica? No, quello è l'alluminio. 747? Che è prima del 757, quello nero? Alluminio, quello alluminio e poi è nero frontale. E non la cassa era di plastica, io l'ho avuto. Il 747 l'ho avuto io. 747, 757, 767, 787. Quello base quadribanda a 220. Non mi ricordo male io. Poi la cassa era di plastica. Vabbè, comunque. Provo, non mi piacciono. Ma il 757 non mi piace modulazione come esce. Io ho provato. Io spingo, però non mi piace. Rimane brutta la modulazione. Aspetta, forse stai confondendo un po' le idee. Io sto parlando del 747 lineareccio, lo voglio attaccare in un apparato. Allora va a vedere i lineareccio, perché c'è il 747 e il 757 come radio della Yaesu, capito? Stavo confondendo nel confondermi. Ah, provo a attaccarlo, vedete? Provo a attaccarlo, non vedo se esce bene. Questo per dire attaccato, vedi? Questo l'ho attaccato, non cambia di modulazione, sto stacco. Così è attaccato. È così che deve essere attaccato, sto facendo le cose al buio, eh? Sì, da 9.10 a 9.20, modulazione stabile. Non fa una piega, quindi l'accordo è giusto, perfetto, questo è a posto. Adesso ne vuoi attaccare un altro, c'è un altro baracchino, così è. Visto che ce l'ho, è tempo, ne ho. Lo voglio attaccare al Seat. Al Seat io l'avevo provato, ma il Seat mi pare che sia quello marrone, sì, col vintage. Io avevo dato la buona anima a Gian Paolo Silvestro, poverino, forse ce l'ha ancora lui. L'avevo proprio regalato. L'avevo attaccato anch'io il lineare, però sì, andava benino. Però il 757, non il 747, io c'ho il 757. Sai cos'è? Che devo spostare un po' di il mobile, fare una spezzone, quindi ho bisogno un po' di tempo. Vabbè, comunque già lo faccio, perché devo alimentarlo, devo fare la spezzone per il lineare. Vabbè, tempo già ne hai. 2PL, te li fai spezzoni, io ne avevo fatto un po', sia di 213 che di 58 per fare così prove. Va bene. Quindi Luca, non sei uscito? No, io esco, adesso fra un po', mi chiedo se è 11, prendo la 8 e faccio un giretto dentro Sassari. Non me la futti situazione. No, io già sono preparato, Lasagne, Luca. Ah? Cos'hai fatto le lasagne? Fatta al forno, sì. Poi mi sono fatto la torta, ricotta e uvetta. Dalle 7. Riuscita da risinco, questa giù. Poi una volta che non riesco a prendere il sonno. Però tra fare colazione e tutto, mi sono fatto anche il pranzo. Là. Oh, ha finito il cazzo che aumentiamo di 30 kg, che buh. Ma cioè non ho capito. Ah, ma sta uscendo questa colazione. No, c'è una radio un po' alta, dimmi. Ho detto a finire, poi va a finire che aumentiamo i 30 kg finita questa storia del virus. Ah, davvero, vero. Volevo più abbrincarti che girarti intorno. Claudio, ma no, sono passato, ma non te ne è scesa la cosa. Non è scesa? Quella che vedi è quella di 6 metri. Ci sono il boom attaccato, c'è il radiale centrale, non so se fosse il radiatore, dove sono i cavi attaccati, uno solo ce n'è di elemento, gli altri due ne sono caduti, e poi c'è il boom attaccato ancora, però per attaccare il boom e quello centrale bisogna essere in due, perché mi deve mantenere la scaletta, c'è solo quella dei 6 metri e basta attaccato. L'altra è tutta rotta, sono rotte le bobine, sono piegati le punte, infatti ho fatto prima a metterla nel ginocchio e piegarla e la prendo all'alluminio. Allora, mi sposto, dai. Sì, è così, dovevamo trovare un momento libero perché è già abbassata l'antenna, capito? Sono riuscito ad abbassarla, come ho mollato i bulloni è scesa da sola, quindi adesso è al testa d'uomo. Però mi devo mettere la scalettina piccolina per smontare il centrale e staccare il boom. La lascio stare così, però almeno adesso in sicurezza. Pazienza, peccato, ci sono le luci. Cuscini strategici dei problemi. L'antenna rimane a terra e non è inviato più, l'ho finito. Va bene, ci sentiamo dopo, vai. Ho sentito Massimiliano poco fa sull'11. Stavo facendo le prove con Fabrizio. Massimiliano, ci sei? Non c'è, va bene. Dimmi. No, stavo provando se era attaccato questo, eh. Dice attaccato l'altra gubba che tu. Bisogna cambiare ogni tanto. Vabbè, dai, rimango ancora X. Questo è una canonata T. Va benissimo, la tua radio, bella, forte, come questa. Le altre già sono belle, ma non hanno niente a che fare con questo. Va bene, dai, divertitela, buon proseguo, io me ne esco a fare un giretto. C'ho l'autocertificazione, me la porto appresso. Porto quando andrò a prendere il pane, quindi va bene così. Via, a dopo. Luca, se ci sei, dopo mi fai una prova, dai. Chi è che chiama Sassari? Basso, basso, basso, chi sei? Antonio Giuseppe, tu sei? Basso, basso, basso, non riesco a capire quello che dici, solleva la voce. Santiago 1, non ti capisco Antonio se sei tu, Non so se sei QTH a Campagnolo o sei abbastanza distante da Sassari, però non riesco a capirti, Il segnale è troppo basso. La modulazione devi cercare di sollevare. Non riesco a capirti, mi dispiace. Vedo muoversi ma non riesco a capire. Io non ne ho. Non ho stazionato. Oh oh oh, prova a Cindria. E me bollone, sparito sì. Luca. Brittella. Attento Luca. Ehi Alfino. Guardami questo segnale, per favore. Guardalo bene. E dimmi se cambia, eh? Ecco qua, alimentato. Va meglio o peggio? Allora, 7, 8, 9, 9, 5. La radio cambia? A posto, va bene. Quindi va bene così? Sì, ti ascolto benissimo. Questo è l'altro 747, eh? Sì, va bene, ti auguria. Perfetta. Ma questo l'ho assegnato al SSB, quello 23 canali. Va benissimo, sì. Va bene, non sa niente. Beh, vabbè, allora te lo lascio là. Te lo lascio. Volevo vedere, c'è la Claudio, ci sei? Ci sei ancora? Vabbè. Vabbè, là, lo lasciamo. Pensavo che non andava bene, che invece già mi stai confermando che va bene. Ne ho un altro grande, ma è troppo grande volare, è un volare. Questo è il Seat, sì. No, un altro amplificatore valvolare, ma credo che vanno meglio questi amospete che quelli valvolari, perché tendono un po' a saturare gli altri. Vabbè, dipende da che ingresso li dai anche, capito? Se dai l'ingresso giusto si satura, ma no, questo va bene, sì. No, già è ultimo come il... come si dice? Come amplificatore il 747. Guarda, se hai tempo posso fare anche un'altra prova, se hai tempo tu, se non sei, perché devo andare dietro, staccare, fare, ti avrei fatto ascoltare il valvolare, se andavo meglio il valvolare mi sarebbe piaciuto di più il valvolare che il MOSFET. Va, sono qua. Ho bisogno un po' di tempo però, perché devo saldare un altro PL e poi fare i collegamenti. E se in quel lì ce lo faccio. E tu chiama, dai, io metto lo squelci, va. Andare, dai, a dopo allora. Sono qua. E via.